Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. A furia di meditare profondamente su tutto quanto gli era successo, Fabrizio diventò un altro uomo. In una cosa sola era rimasto ancora un ragazzo. Quello che aveva visto era una battaglia. E poi, quella battaglia era Waterloo. Per la prima volta in vita sua provò piacere a leggere. Sperava sempre di trovare nei giornali, nei resoconti della battaglia, qualche descrizione in cui riconoscere le località dove era passato al seguito prima del maresciallo Ney e poi dell'altro generale. E Damien scrisse quasi ogni giorno alle sue amiche della Striglia. Appena guarito, partì per Parigi. Trovò al solito albergo una ventina di lettere della madre e della zia che lo supplicavano di tornare il più presto possibile. L'ultima lettera di Gina era piuttosto misteriosa. Fabrizio ne fu molto impressionato. Quella lettera gli fece passare tutte le sue fantasticherie sentimentali. Il suo era un carattere cui bastava una parola per figurarsi senza alcuno sforzo le sciagure più terribili. E a dipingergli quelle sciagure nei particolari più sinistri ci pensava poi la sua immaginazione. «Sta bene attento a non firmare mai le lettere che ci scrivi per darci tue notizie», scriveva Gina. «Al tuo ritorno non devi assolutamente venire subito a Griante. Fermati in territorio svizzero, a Lugano». Doveva arrivare a Lugano sotto il nome di Cavi e al migliore albergo della città avrebbe trovato un cameriere della contessa che gli avrebbe dato le istruzioni. La lettera finiva con queste parole: «Fa che nessuno sappia delle tue follie e non tenere addosso carte di alcun genere né scritte a mano né stampate, perché in Svizzera avrai intorno un bel po' di amici di Santa Margherita. Se trovo i soldi manderò qualcuno a Ginevra, all'albergo delle bilance, perché ti informi di certe cose che non posso scrivere ma che devi assolutamente sapere prima di arrivare. Ma per carità, non fermarti a Parigi un giorno di più, è pieno di spie e ti riconoscerebbero subito». A Ginevra si incontrò con un uomo mandato dalla zia. Gina gli faceva sapere che era stato denunciato alla polizia di Milano per essere andato da Napoleone a sottoporgli i piani completi di una vasta cospirazione organizzata nell'ex Regno d'Italia. Il fatto che lui si fosse servito di uno pseudonimo, diceva la denuncia, provava la sua colpevolezza. Sua madre, gli mandava a dire la zia, avrebbe cercato di provare la verità, e cioè: primo, che lui non aveva mai lasciato la Svizzera. Secondo, che era partito improvvisamente dal castello dopo una lite con il fratello maggiore. Fabrizio ne fu molto orgoglioso. «Sarei dunque stato una specie di ambasciatore presso Napoleone», pensava. «Avrei avuto l'onore di parlare a quel grande uomo, fosse vero». Interrogando il cameriere, Fabrizio si accorse poi che voleva nascondergli qualcosa. Insistette e quello parlò benché la sua padrona gli avesse ordinato ripetutamente di tacere. Era Ascanio che lo aveva denunciato alla polizia di Milano. Quella notizia spaventosa fece impazzire di rabbia il nostro eroe. Per andare in Italia da Ginevra si passa da Losanna e lui volle partire subito, a piedi. E erano una dozzina di leghe, senza aspettare la diligenza che sarebbe partita di lì a 2 ore. Fabrizio fece in modo di arrivare al castello verso mezzanotte, perché a quell'ora suo padre e tutti i camerieri dai capelli incipriati erano già addormentati da un pezzo. Fu una cosa da niente per lui calarsi nel fossato e entrare nel castello dal finestrino di una cantina. Lì trovò ad aspettarlo la madre e la zia. Un attimo dopo arrivarono le sorelle, andarono avanti per un pezzo con le lacrime e le effusioni d'affetto. Si incominciò a parlare di cose pratiche solo quando le prime luci dell'alba vennero a ricordare a quelle persone che si credevano tanto infelici che il tempo volava. Gina e la madre di Fabrizio erano come impazzite. Fabrizio dovette ricominciare da capo tutta la sua storia. Alla fine decisero di andare a nascondere la loro gioia a Milano. Gli sembrava troppo difficile riuscire a sfuggire per molto alla polizia del Marchese e di Ascanio. Partirono subito, prima che il cocchiere facesse in tempo a parlare con qualcuno. Poco fuori di Como incontrarono un giovane cacciatore che conosceva bene le signore. Fu molto gentile e, dato che le signore erano sole, si offrì di far loro da cavaliere fino alle porte di Milano, dove era diretto anche lui. Andava tutto benissimo. Le signore conversavano allegramente con il giovanotto, ma nel punto dove la strada fa una curva per girare intorno alla bella collina e al bosco di San Giovanni, 3 gendarmi in borghese saltarono alle briglie dei cavalli. «Mio marito ci ha traditi!» gridò la marchesa e svenne. Un sergente, che era rimasto un po' indietro, venne barcollando verso la carrozza e disse con una voce che sembrava venir fuori da un'osteria: «Sono molto spiacente di dover compiere questa missione, ma devo arrestarvi, generale Fabio Conti!» Fabrizio pensò che il sergente volesse prenderlo in giro chiamandolo generale. «Me la pagherai», pensò. Guardava i gendarmi, aspettava il momento buono per saltar giù dalla carrozza e buttarsi tra i campi. La contessa, pensando probabilmente succeda quel che vuole, fece un bel sorriso, poi disse al sergente: «Ma caro sergente, è questo ragazzo di 16 anni che prendete per il generale Conti?» «Non siete la figlia del generale, voi?» disse il sergente. «Come no? E questo è mio padre», disse la contessa indicando Fabrizio. I gendarmi scoppiarono a ridere. «Poche storie, fuori il passaporto», disse il sergente, piuttosto seccato da quella ilarità generale. «Queste signore non prendono mai il passaporto per andare a Milano», disse il cocchiere. Se la prendeva con molta filosofia, parlava senza scaldarsi. «Vengono dal loro castello di Griante. Questa è la signora contessa Pietranera e quella la signora marchesa del Dongo». Fabrizio, che continuava a guardarsi intorno per cercare una via di scampo, vide sbucare da un sentiero sulla strada coperta di polvere una ragazzina di 14 o 15 anni che piangeva timidamente nel suo fazzolettino. Camminava tra 2 gendarmi in divisa. Dietro, anche lui in mezzo a 2 gendarmi, veniva un uomo alto e magro che ostentava un'aria molto dignitosa, come un prefetto al seguito di una processione. «Ma dove li avete trovati?» disse il sergente. Adesso era completamente ubriaco. «Scappavano attraverso i campi e niente passaporto!» Il sergente sembrava che avesse perso completamente la testa. Aveva bisogno di 2 prigionieri e se ne trovava davanti 5. Si allontanò di qualche passo, lasciando uno dei suoi uomini a guardia del prigioniero che faceva l'austero e un altro davanti alla carrozza per impedire che si muovesse. «Sta qui», disse Gina a Fabrizio, che era già sceso. «Vedrai che va tutto a posto». La discussione andò avanti per molto. Intanto la contessa si era messa a parlare con la ragazza, che stava ancora in piedi nella polvere vicino alla carrozza. Era rimasta colpita dalla sua bellezza. «Tutto questo sole vi farà male, signorina. Questo bravo soldato», aggiunse rivolgendosi al gendarme a guardia dei cavalli, «vi permetterà certo di salire in carrozza». Fabrizio, che continuava a andare avanti e indietro, si avvicinò per aiutarla a salire. La ragazza si era già mossa per mettere un piede sul predellino, sorretta per un braccio da Fabrizio, ma il tipo austero, che era rimasto a qualche passo dalla carrozza, tirò fuori un vocione che voleva essere pieno di dignità e gridò: «State giù! Non dovete salire su una carrozza che non vi appartiene!» Fabrizio non aveva sentito. La ragazza cercava di scendere, lui continuava a sorreggerla, gli finì in braccio. Lui sorrise, lei diventò rossa. Poi la ragazza si liberò dal suo abbraccio. Rimasero a guardarsi per un momento. «Sarebbe un'incantevole compagna di prigione», pensò Fabrizio, «e deve essere molto intelligente. Sono sicuro che sarebbe capace di un grande amore». Thank you. Il sergente venne avanti con aria autorevole. «Chi è di queste signore che si chiama Clelia Conti?» «Io», disse la ragazza. «E io», gridò l'uomo anziano, «io sono il generale Fabio Conti, ciambellano di Sua Altezza Serenissima, Monsignore il Principe di Parma. Ritengo assolutamente sconveniente che un uomo del mio rango sia trattato come un criminale. L'altro ieri, quando vi imbarcavate al porto di Como, non avete forse mandato a spasso l'ispettore di polizia che vi chiedeva il passaporto? Ecco, oggi è lui che vi impedisce di andare a spasso. Stavo già uscendo dal porto, avevo fretta, stava venendo brutto tempo. Ho visto un uomo in borghese che mi ha gridato dal molo di tornare indietro e io gli ho detto chi ero e ho continuato il viaggio. E stamattina non siete per caso scappato da Como? Un uomo come me non prende il passaporto per andare da Milano a vedere il lago. Stamattina a Como mi hanno detto che alle porte della città mi avrebbero arrestato e allora sono partito a piedi con mia figlia. Speravo di trovare lungo la strada una carrozza per farmi portare fino a Milano. E quando arriverò a Milano, state certo che per prima cosa andrò a protestare dal generale comandante della provincia. Il sergente sembrava molto sollevato. Dunque, generale, vi dichiaro in arresto e vi conduco a Milano. Poi disse a Fabrizio: «E voi chi siete?» «Mio figlio», disse la contessa, «Ascanio, figlio del generale Pietranera». «Senza passaporto, signora contessa?» disse il sergente tutto rabbonito. «Alla sua età, ma non lo porta mai, non viaggia mai da solo, è sempre con me». Al generale piaceva molto parlare di sé e della propria famiglia e approfittò dell'occasione per informare le signore che sua figlia aveva appena 12 anni, essendo nata il 27 ottobre del 1803, ma che tutti le davano 14 o 15 anni, tanto era intelligente. «Decisamente un uomo mediocre», dicevano gli occhi di Gina alla marchesa. Clelia fu autorizzata dall'austero ciambellano a accettare un posto sulla carrozza delle signore per arrivare fino a Milano, e nessuno si sognò di arrestare il figlio del valoroso generale Pietranera. Dopo i primi convenevoli e i commenti sul piccolo incidente ormai concluso, Clelia notò la sfumatura di entusiasmo che c'era nella voce di Gina quando si rivolgeva a Fabrizio. Non era certo sua madre. E Clelia fu anche molto colpita da tutta una serie di allusioni a qualcosa di eroico, di coraggioso, di pericolosissimo che Fabrizio doveva aver fatto poco tempo prima. Ma malgrado tutta la sua intelligenza, la ragazza non riuscì a capire di che cosa si trattasse. Continuava a guardarlo meravigliata, quel giovane eroe. Le sembrava che nei suoi occhi brillasse ancora il fuoco dell'azione. Quanto a lui, la strana bellezza di quella ragazzina di 12 anni lo aveva intimidito. I suoi sguardi lo facevano arrossire. A una lega da Milano, Fabrizio disse che doveva andare a casa di suo zio e si congedò dalle signore. «Semmai riuscirò a cavarmela», disse a Clelia. «Verrò a vedere i bei quadri che ci sono a Parma e spero che allora vi degnerete di ricordare questo nome, Fabrizio del Dongo». «Ah, bene», disse la contessa. «Sei davvero bravo a mantenere l'incognito, signorina. Siate così buona da ricordarvi che questo cattivo soggetto è mio figlio e si chiama Pietranera, non del Dongo». La sera sul tardi Fabrizio entrò a Milano attraverso la Porta Renza, che dà su una passeggiata alla moda. Il fatto di aver mandato i due camerieri a incontrare Fabrizio in Svizzera aveva dato fondo alle scarse risorse economiche della marchesa e di Gina. Per fortuna Fabrizio aveva ancora qualche napoleone e un diamante che decisero di vendere. Partire con Le signore conoscevano tutta Milano e erano molto simpatiche a tutti. I personaggi più influenti del partito austriacante e clericale andarono dal barone Binder, capo della polizia, a parlare in favore di Fabrizio. «È inconcepibile, dicevano, che si possa prendere sul serio un colpo di testa di un ragazzo di 16 anni che scappa di casa dopo un litigio con il fratello maggiore. Datemi la descrizione documentata di quello che ha fatto giorno per giorno il marchesino del Dongo», ripeteva il barone Binder ai protettori di Fabrizio. «Prendiamolo da quando ha lasciato Griante l'8 marzo e seguiamolo fino al suo arrivo a Milano ieri sera, quando è andata a nascondersi nell'appartamento di sua madre. In questo caso sono pronto a trattarlo come il più simpatico e il più furbo giovanotto di tutta la città. Ma se non potete darmi la descrizione di quello che ha fatto giorno per giorno da quando è partito da Griante, io, malgrado il suo rango e il rispetto che porto agli amici della sua famiglia, non ho forse il dovere di farlo arrestare». Questo discorso, duro ma ragionevole, fu accompagnato da tutti i segni della deferenza e del rispetto che il capo della polizia doveva alla posizione della Marchesa del Dongo e a quella degli importanti personaggi che erano venuti da lui in suo nome. Quando seppe quale era stata la risposta del barone Binder, la Marchesa fu presa da una crisi di disperazione. «Lo arresteranno!» gridava piangendo. «E una volta in prigione, Dio sa quando ne uscirà, suo padre lo rinnegherà!» Poi lei e la signora Pietranera si consigliarono con due o tre amici intimi. La Marchesa non volle sentir ragioni. Decise che Fabrizio sarebbe partito la notte seguente. «Ma hai sentito?» le diceva la cognata. «Il barone Binder sa benissimo che tuo figlio è qui. Non è cattivo». «D'accordo, ma vuol far bella figura con l'imperatore. Ma se pensasse che buttare Fabrizio in prigione potesse servirgli per la carriera, tuo figlio sarebbe già in prigione. Se lo facciamo scappare è un atto di sfiducia, si offenderà. Farci capire che sa dove Fabrizio è come dirci fatelo scappare. No, finché dovrò pensare che tra un quarto d'ora mio figlio potrebbe essere in prigione, non potrò vivere. Per quanto sia ambizioso, il barone Binder pensa che per la sua posizione personale in questo paese sia utile trattare con un certo riguardo un uomo del rango di mio marito. La prova è che si è lasciato andare così stranamente a dire che sa dove potrebbe prendere mio figlio. Non equivale forse a dirci che se preferiamo l'esilio alla prigione sta a noi scegliere? Se scegli l'esilio, continuava a ripetere la contessa, non lo rivedremo mai più. Fabrizio, che aveva assistito alla discussione insieme a uno dei vecchi amici della Marchesa, consigliere presso il tribunale formato dagli austriaci, era del parere di lasciare la città e la sera stessa uscì dal palazzo nascosto nella carrozza che portava alla Scala la madre e la zia. Del cocchiere non c'era da fidarsi, ma quando quello andò come al solito a fare una capatina all'osteria lasciando a guardia dei cavalli il lacchè, una persona sicura, Fabrizio, vestito da contadino, scivolò fuori dalla carrozza e uscì da Milano. Tutto andò bene, anche il mattino dopo, al momento di passare la frontiera. E qualche ora più tardi Fabrizio arrivò in una proprietà di sua madre, in Piemonte, vicino a Novara, e precisamente a Romagnano, dove morì Baiardo.